Fabrizio Intonti. Settimana stiamo chiedendo a voi ascoltatori di Radio 24 e in particolare a voi che ascoltate Giro di Vita di dirci quale mestiere vorreste fare in una nuova vita, o meglio di dirci secondo voi con quale mestiere potreste cominciare una vita nuova e diversa rispetto a quello che fate. Ci sono arrivate un po' di risposte e la prima in assoluto è stata la risposta di un ascoltatore che ha detto: vorrei scrivere di viaggi, e ha scritto che secondo lui è un mestiere in cui ti pagano per andare in dei posti fighi, mangiare in dei posti fighi, dormire in dei posti fighi, e quindi vorrebbe fare quel lavoro là. È stato il primo ma non l'unico. Una serie di persone ci hanno scritto che vorrebbero scrivere le guide, che vorrebbero scrivere di viaggi, che secondo loro è un mestiere da sogni, anche un po' da privilegiati. E allora noi oggi siamo andati a cercare per voi qualcuno che fa questa vita, qualcuno che lavora scrivendo guide di viaggio. Questo faremo oggi, e a voi che ci state ascoltando chiediamo se vi piacerebbe, se avete mai scritto un diario di viaggio, un blog sui viaggi, oppure che paese vi piacerebbe descrivere, di quale posto del mondo vi sentite esperti e vorreste scrivere una guida. 800 24 00 24. Oggi parliamo di chi viaggia per scrivere e di chi scrive per viaggiare. Nove minuti dopo le 4 del pomeriggio, bentornati a Giro di Vita, io sono Achille Corea e noi ogni giorno vi raccontiamo appunto storie di chi cambia vita, o a volte anche, come dire, delle istruzioni per l'uso di chi vorrebbe cambiare vita. E oggi ad esempio parliamo di questo mestiere così evocato. Io ci stavo un po' pensando, io che di cosa potrei scrivere una guida? Boh, cioè non ho un paese, potrei scrivere una cosa, che ne so, la guida ai migliori zozzoni di Roma, la guida ai migliori autogrid della Salerno-Reggio Calabria. Non lo so, potrebbe avere un mercato. Vabbè, parliamo con chi lo fa seriamente. Claudio Meirone, benvenuto. Buongiorno a tutti. Claudio, tu sei l'autore di guide come Mauritania e il sapere delle sabbie, insomma guide serie, non come quelle che dico io, guide di posti lontani ed esotici. Come hai cominciato a fare questo lavoro? Ma diciamo che è stata un'avventura iniziata per caso, iniziata dopo appunto un cambiamento della nostra vita, dico nostra perché le guide le ho scritte assieme alla mia consorte. Voi scrivete le guide in due? Viaggiate? A due mani, certo. A quattro? Viaggiate e scrivete, insomma siete sempre insieme, viaggiate e scrivete. Ma sì, diciamo che la passione principale era quella del viaggio, ed era una passione talmente forte che ci ha portato una dozzina di anni fa ormai, 47, quindi anche 13, ci ha portato a cambiare vita, cioè a dedicare appunto tutte le nostre energie e le nostre emozioni al viaggio. Claudio, cosa facevate prima? Hai detto cambiare vita, cosa facevate prima? Allora, io avevo ereditato dal mio papà una pompa di benzina, facevo il benzinaio, avevo un distributore e mia moglie faceva l'impiegata in uno studio commercialistico. E durante le nostre vacanze è arrivata un po' più volte la passione per il viaggio in posti particolari. Nel senso che noi siamo i classici colpiti dal mal d'Africa. I nostri viaggi sono stati anche in altre parti del mondo prima, ma nell'ultimo decennio abbondante, ti sentiamo anche negli ultimi un po' 15 anni dedicati all'Africa. Ecco, sì. E senti Claudio, ci si vive, si guadagna bene scrivendo le guide? Ma diciamo che in Italia al giorno d'oggi per vivere decorosamente non è sufficiente fare questo lavoro, nel senso che io ho un altro lavoro, nel senso che io poi mi sono cercato di trovare un lavoro che facesse un pochettino comodo con la mia passione, con la nostra passione dei viaggi. E allora da alcuni anni il periodo di viaggio si è decisamente ridotto, però non è ovviamente terminato, ecco, si è ridotto un pochettino, anche perché abbiamo avuto nel frattempo dei bambini. Ah, come che fate? Portiamo con noi nei nostri viaggi. Cioè, quindi voi portate i bambini in Mauritania e negli altri posti? Sì, ce li siamo sempre portati dietro. I primi viaggi sono stati che quando eravamo solamente in due, quindi era tutto più semplice perché si chiudeva uno zaino, si prendeva un biglietto aereo oppure si prendeva la nostra fuoristrada, la nostra Land Rover per andare in Libia, in Tunisia, in Marocco, in Mauritania, e quindi era tutto più semplice. Con i bambini è chiaro che bisogna avere tutta una serie di accorgimenti. Per pensare che no, anche se cerchiamo di allevarli nella maniera più spartana possibile, ecco. Quanto, come è diviso il vostro anno anche in base ai guadagni? Quanto tempo dedicate a scrivere le guide e a viaggiare e quanto tempo invece dovete impiegare a fare un altro lavoro? Ma allora, scrivere le guide è una cosa che mia moglie fa più a tempo pieno, diciamo, e io lo faccio più nei ritagli di tempo, mentre il viaggio ovviamente è insieme e occupa dai 2 ai 4 mesi all'anno, ecco. Quindi comunque voi 2-4 mesi all'anno siete fuori. Che altro fate a parte? E io adesso appunto ho iniziato a fare, ho una ditta individuale, faccio l'artigiano, ho una ditta che si occupa di tinteggiature e decorazioni, che ho praticamente intrapreso questa attività perché qui nel periodo invernale questa attività così fisiologicamente, vista le temperature rigide, va un pochettino a calare. Ed ecco lì che è il momento buono per partire e andare nei paesi caldi e a iniziare la nostra seconda attività, cioè quella di viaggiatori. Tu all'inizio hai detto... Il nostro viaggio è sempre, scusami, è sempre rivolto alla ricognizione e al reperimento di dati che vengono poi elaborati a casa nel tempo libero mio e nel tempo magari un po' più assiduamente da mia moglie. Senti, tu all'inizio hai detto per caso, però per caso è una risposta un po' vaga. La prima guida, cosa avete fatto? Siete andati da degli editori, l'avete spedita? Come avete fatto a esordire? Allora, la prima guida è dunque la storia è nata così. Eravamo stati perché poi quando uno si dedica ai viaggi, a girare un pochettino il mondo, entra in contatto con persone che hanno anche questa passione e quindi ci entra un po' in un giro di conoscenze che magari ti ritaglia anche delle opportunità di lavoro all'interno del viaggio. Quindi il viaggio non è solamente il viaggio fine a se stesso, ma può essere appunto la ricognizione per la stesura di una guida, ma prima che queste attività iniziasse era stato anche un viaggio nella Namibia, che poi ci aveva portato a conoscere delle persone che avevano praticamente bisogno di una coppia di manager nella loro tenuta, nella loro fattoria. E in questa fattoria noi ci siamo fermati per 3-4 mesi all'anno, per 4 anni consecutivi, quindi abbiamo avuto modo di conoscere bene il paese. Mi sono perso, abbiamo avuto come poi si arriva? Abbiamo un'esperienza di viaggio in un'agenzia di viaggi locale che appunto accompagnava dei turisti e quindi... accompagnava dei turisti principalmente italiani, quindi essendo noi italiani eravamo avvantaggiati a fare le guide perché conoscevamo ambo le lingue. Ma come siete arrivati poi alla guida? Perché mi stai facendo una serie di lavori. Sono partito da lontana. Dopodiché, dopo questa esperienza di viaggio in Namibia, di viaggio e di lavoro in Namibia erano intervallate da altri viaggi nel Sahara. Cioè nel 2000, mi sembra, abbiamo fatto un grande viaggio, partiti dalla Tunisia e siamo scesi in Libia, siamo entrati in Niger, siamo passati poi in Mali, in Senegal, in Mauritania e in Marocco. È stato un viaggio avventuroso, stupendo, che era durato 5-6 mesi, durante il quale ogni giorno noi scrivevamo il nostro diario di bordo. Tornati a casa, abbiamo elaborato questo diario in maniera che fosse un pochettino anche un racconto, un romanzo, un diario di viaggio, e l'abbiamo mandato ad alcune case editrici. E in quanti vi hanno risposto? Una casa editrice. Vabbè, vedi, però è già qualcosa. Senti, dimmi. Per parlare di questo diario di viaggio ed è venuto fuori che noi eravamo stati per lungo tempo in Namibia. Questa casa editrice iniziava a occuparsi anche di guide turistiche. Al che ho detto, ma noi interesserebbe una guida turistica sulla Namibia. Voi sareste in grado di farla. Ma ci potremmo provare. E allora è iniziato questo lavoro di 2 anni di preparazione, di stesura, di prove, di bozze. La guida sulla Namibia è uscita nel 2003, dopodiché scrivere altre è stato... Senti, quanto, anche perché ti stiamo un po' perdendo, quante guide avete scritto alla fine? Alla fine abbiamo scritto 3 guide. 3 guide, e ne avete un'altra? Dopo la Namibia è uscita quella su Senegal e Gambia, e ultima la guida sulla Mauritania, che è uscita questa primavera, nel mese di marzo-aprile. Il prossimo viaggio qual è, veloce? Il prossimo viaggio sarà un viaggio quest'inverno, perché lo scorso anno abbiamo avuto un ultimo bimbo e quindi siamo rimasti a casa e abbiamo saltato. Quest'anno dobbiamo recuperare, ci recheremo nuovamente in Africa australe, quindi Sudafrica, Namibia, Botswana, per una ricognizione in quella zona. Va bene, ti chiediamo due consigli per i nostri ascoltatori. La valigia e la zavorra. Allora, secondo la tua esperienza, per chi volesse iniziare questa attività, una cosa da portarsi dietro e una cosa da lasciare? Ma assolutamente, se uno decide di fare questo da solo o in compagnia deve andare con una persona con cui veramente sei in sintonia, altrimenti il viaggio resta difficile. Quindi no, adesso è iniziato appunto con la mia moglie e figli, quindi la cosa che io metterei sempre in valigia è sempre la persona giusta con cui condividere queste esperienze di viaggio che sono strepitose. E cosa si lascia? Cosa si lascia quando si parte? Beh, si lasciano un po' tutte le preoccupazioni quotidiane. Quando sei qua ti sembrano delle cose insormontabili, problemi, tutte le grane, lo stress che poi ci creiamo, che poi una volta che sei sceso dall'aereo, una volta che tu hai messo le ruote della tua Jeep sulla sabbia africana, sembrano cose, sembrano cose lontanissime. Ok, grazie Claudio Meirone, e noi andiamo avanti e vi ricordo 800 24 00 24 se avete un'idea, una voglia o se sentite un'esperienza forte, vorreste anche voi scrivere una guida, diteci su cosa. E se lo facessi io? Su cosa? Su dove soprattutto? Perché parliamo di guide di viaggio e quindi non di manuali. Noi, come sapete, ci chiediamo ogni giorno non solo come ha fatto una persona, ma come si fa in generale. Quindi dopo aver sentito uno scrittore, sentiamo poi quello che questa guida se la deve comprare per venderla ai viaggiatori e ai turisti. Sentiamo un editore che è Daniele Bosi, editore di Polaris. Benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, il mestiere che appunto dalle mail dei nostri ascoltatori è visto anche un po' idealizzato, se vogliamo, della guida turistica, dello scrittore di guide turistiche, è davvero così bello e vantaggioso? Beh, bello sì, sicuramente è bello, ritengo. Vantaggioso dipende. Diciamo che economicamente forse non è molto vantaggioso, almeno qui nel mercato italiano. Ecco, ecco, e Claudio ci ha detto che comunque fa con la moglie, fanno altri lavori per certo, diciamo, compensare. Certo. È una pratica comune? Questo è normale in Italia, praticamente non esistono professionisti della scrittura di guide turistiche. Gli unici professionisti potrebbero essere i giornalisti, ci sono dei giornalisti che scrivono di viaggio su riviste, mensili, eccetera, eccetera, e contemporaneamente scrivono anche guide turistiche. Senti, io ho da sempre una curiosità, lo chiedo a lei. Quando uno che scrive una guida turistica va a mangiare in un posto, a dormire in un albergo, a vedere uno spettacolo, si presenta di solito, dice salve, io sono qui perché devo scrivere una guida turistica? Ma correttezza vorrebbe che non si presentasse. E costume? E in realtà poi succede che anche per ottenere facilitazioni, sconti, eccetera, eccetera, in realtà ci si presenta, a volte si viaggia anche con una lettera di presentazione dell'editore, ecco. E la seconda domanda è poi alla fine chi paga? Cioè è una spesa viva o uno mette in nota e poi da lei arriva dicendo ho speso tanto? Ma per quanto riguarda i nostri autori, loro sono assolutamente autonomi, cioè nel senso tutte le spese sono a carico loro, noi non rimborsiamo. Può darsi che altre case editrici, sicuramente gli editori di periodici spesso rimborsano a piedi listi, insomma. Senta, un consiglio per chi ci ascolta, per proporre una guida, qual è la cosa migliore? È trovare un luogo insolito, trovare una formula diversa dagli altri? Ma il luogo insolito non necessariamente, la formula potrebbe essere invece la chiave giusta per proporre una guida. Sicuramente bisogna essere però consapevoli di saper scrivere, ecco, questa è la prima variabile necessaria, ecco. Cioè, ed è meglio arrivare con una guida già bella e pronta oppure con un'idea, un promo? No. Con una guida bella e pronta, diciamo che può servire per far capire all'editore come uno riesce a esprimersi, come riesce a far conoscere un paese, però molto spesso gli editori hanno comunque delle strutture preordinate. Quindi sarebbe un lavoro da rifare. Per cui sì, si tratterebbe poi dopo di aggiustare tutto alla collana dell'editore. Un doppio lavoro. Allora io ringrazio Daniele Bosi, ricordo la casa editrice che è Polaris, sito polaris.it, e noi andiamo avanti. Andiamo avanti sempre ricordandovi che potete scriverci o chiamarci per dirci di che cosa vorreste scrivere una guida, però noi non possiamo sottovalutare il fatto che ormai un sacco di gente scrive delle guide, compila dei diari di viaggio su internet, e allora abbiamo al telefono Massimo Cannizzaro, che è responsabile editoriale di zingarate.com. Benvenuto Massimo. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Massimo, voi avete sul vostro sito, che in realtà è una community, come dicono quelli che ne sanno, insomma un luogo di incontro online, una serie di guide nei posti più svariati del mondo, fatti da persone che non sono professioniste. No, bensì sono direttamente gli utenti del sito. Le guide sono nate addirittura, diciamo, dal forum, sono state poi organizzate come delle vere e proprie guide dove poter raggiungere o modificare i contenuti, ma nascevano proprio come topic dedicati del forum su alcune città, ecco, dove gli utenti appunto condividevano alcune dritte. Ecco, quindi nessuno di quelli che noi troviamo che scrive delle guide anche lunghe è pagato o retribuito in qualche modo? Assolutamente no, è soltanto il piacere, la voglia di compartecipare a queste guide, come si è stati a volte, diciamo, degli utenti passivi e quindi si è preso il consiglio di un utente per evitare, che ne so, la fila in un determinato museo comprando il biglietto da un'altra parte, si partecipa dando un'altra dritta, magari come mangiare proprio in quella zona che è particolarmente turistica, a poco senza essere spennati. Ecco. Ci sono degli scambi di consigli oppure delle critiche che vengono fatte da utenti ad altri utenti, delle richieste di cambiamenti, eccetera? Assolutamente sì, anche per questo bisogna, insomma, ovviamente monitorare, no? Tramite la redazione tutte queste mole di consigli e contributi, soprattutto su alcuni posti specifici, magari il ristorante dove vanno tutti a Barcellona, dove alcuni si sono trovati bene, altri si sono trovati male, e lì magari in quel caso si apre il dibattito e si lascia aperto. Vi viene mai il sospetto o la certezza che qualcuno si iscriva o faccia la guida per consigliare appositamente dei posti in cui lavora? Assolutamente sì. Anche per questo serve monitorarlo come un qualsiasi altro forum o comunque uno spazio aperto alla community, e appena si ravvisa, diciamo, una pubblicità più o meno indiretta, eliminare direttamente il contributo. Insomma, questa è la tutela e diciamo il livello di guardia da tenere. Grazie Massimo Cannizzaro di zingarate.com. E mentre io penso sempre a che guida potrei scrivere, vorrei sentire Marco. Pronto? Ciao Marco, cosa vorresti scrivere? Ma io è un po' di tempo che ci penso, anche se poi non è facile mettersi a scrivere. Io faccio uno sport un po' particolare che è il triathlon, non so se sai cos'è. Eh sì, sono corsa, bicicletta e nuoto? Sì, nuoto, bici e corsa. Diciamo, in giro per il mondo ci sono le gare di Ironman, che, diciamo, è un triathlon abbastanza estremo, abbastanza lungo. Perché sono 3,8 km di nuoto, 180 di bici e 42 piedi. Ho già l'affanno. Tutti lo stesso giorno. Sì. Ho già l'affanno solo a sentirlo. Tu l'hai fatto? Quante volte l'hai fatto? Diciamo così, ho cominciato qualche anno fa così per divertimento, e ho girato un po' il mondo, ho cominciato a farne, purtroppo in Italia non ne abbiamo, forse quest'anno ne fanno uno in Sardegna, però di solito in Germania, ho cominciato la Germania, la Francia. E poi ho cominciato a sconfinare con la Cina, la Nuova Zelanda, l'Australia, la Malesia, e vedo che spesso le persone hanno difficoltà a capire come organizzarsi per partire, dove andare, anche se sono dei consigli, no? Scusami un attimo, ma tu quando vai in questi posti per fare questa cosa proprio veramente provante, tu riesci anche a vedere i posti? E infatti è quella la differenza. Diciamo, si vede una parte abbastanza nascosta del posto, nel senso che c'è chi ha la fortuna di riuscire a farci anche magari una settimana. Io di solito quando vado in Europa, ad esempio questa domenica ce n'ho uno in Germania, a Roth, parto domani mattina e torno lunedì, quindi non riuscirò più di tutto, tanto a tutto a riposo, scusa, velocissimo perché siamo in chiusura, poi sì, che lavoro fai qua? Però, diciamo qui che fai? Che la guida essenziale per le persone che vogliono fare queste cose è avere un appoggio per capire come organizzarsi in questi posti, perché spesso non sono nelle grosse città, sono in periferia, così, quindi ci sono mille dubbi sull'albergo da scegliere, come sarà il posto, che clima c'è e cose del genere. Ho capito, dobbiamo chiudere, quindi saluto Marco, il nostro esperto di Iron Man. Le grandi domande della seconda vita. Allora, noi, a parte insomma chiedervi queste cose tipo che lavoro vorreste fare, vi chiediamo anche tante cose settimana per settimana. Questa settimana siete stati abbastanza stimolati dal lavoro dei sogni. Ad esempio Susanna ha detto il chiosco in cui vendo drinks su un'isola caraibica. Settimana prossima ne parliamo, ve lo anticipo. E Marco ci ha scritto che vorrebbe fare l'allevatore di polpi indovini, che è un mestiere che dà soddisfazione. Siamo in chiusura, io un'idea per fare una guida figa non ce l'ho avuto. Ecco, forse la guida all'estero, per quelli che vanno all'estero e vogliono mangiare la pizza e prendere il caffè come in Italia, che è una tipologia molto diffusa. Io vi saluto tutti, ringrazio Valerio Rocchetti che si è occupato della parte tecnica, ringrazio Fabrizio Intonti, io sono Achille Corea e ci risentiamo domani. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.